Di nuovo in diretta alle 7:46 minuti, Breakfast Club, imprevedibile martedì, come la neonata rubrica Altri suoni che nel 2024 ha visto la luce. A tal proposito, l'abbinamento, il parallelismo con la rassegna in angelica, la rassegna che ha portato, come sempre definisco questo, alzar l'asticella nell'ascolto, ma nello stesso tempo con l'estetica, la bellezza, l'introspezione, la ricerca, l'esplorazione, portare continuamente a mettersi in discussione. Questa 34esima edizione che abbiamo seguito dall'inizio alla fine, e già ci manca, questo va sottolineato, ha visto una direzione artistica illuminata come di consueto da Massimo Simonini, con la curatela di Walter Rovere, con l'aiuto anche per quanto riguarda un rapporto che ha portato la Norvegia all'interno di Angelica, come di solito porta Luca Vitali nelle sue selezioni con artiste e artisti scandinavi che danno la possibilità a noi di avere uno spettro ancora più variegato per quanto riguarda questa totalità di suoni. Sì, totalità di suoni, anche se ovviamente raggiungere questo aspetto olistico è non immediato, ma questa non immediatezza ci ha aiutato ad avere visione continuamente in ampliamento. Con Massimo Simonini abbiamo portato un riassunto un po' di emozioni, sensazioni, pubblico e perché no anche progetti futuri per quanto riguarda l'edizione di Angelica, la sede che è il Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, l'inizio che, a dispetto di un titolo At Last, l'ultima composizione di Stefano Scodanibbio, con delle interpretazioni che hanno visto Livia Rado, soprano, che si distingue per la sua attività rivolta al repertorio contemporaneo, è stato il via, è stato dal 2 maggio fino al 30 maggio una possibilità di ascolto. Come ho detto, questa è stata la partenza, un progetto di prima assoluta, e poi a seguire porteremo anche motivo di colonna sonora, riportando registrazioni direttamente dalle sedi di concerto per la 34esima edizione di Angelica, e andando anche ad esplorarne i contenuti in questa puntata di Altri suoni. Quindi io direi di iniziare la nostra conversazione con Massimo, direttore artistico della Kermesse, e una riflessione che ha portato nell'aspetto di percorso per le artiste e gli artisti che hanno lavorato, hanno costruito, hanno fatto laboratorio, un momento, non è un aspetto biografico, è quella parte nel nostro percorso di vita artistica e non che stiamo vivendo, riportato all'interno del programma 2024 di Angelica. A questo punto, anche con le note tra l'altro che avremo a commento di questa conversazione, direi di iniziare. Mi è venuto di parlare di life music come di qualcosa che riguarda l'esistenza e che sembra banale a dirsi, però passando anche le generazioni penso che si possa più a livello collettivo tendere a vedere il musicista nel suo percorso musicale, che grazie a tutti gli strumenti che ha può attingere a tante, non solo culture, tradizioni, ma può possibilmente attingere a se stesso come una fonte originale per qualcosa di espressivo e unico, perché è lui che parla. E poi certo ci può essere qualcosa che ci riconduce a qualcos'altro, ci può essere qualcosa che rappresenta una stanchezza, ci può essere qualcosa che invece rappresenta una freschezza. Quel musicista vive qualcosa di particolare in quel momento e lo condivide con noi. Questa è un'analisi, anzi non è un'analisi, è una riflessione che vorrei fare sulla musica con te, con chi ci ascolta e con chi ho cercato di coinvolgere in questo pensiero del 34esimo anno di Angelica. Non che in passato non abbia parlato di questo, o dico sempre cercato di parlare di questo, ma questa volta ho messo l'accento su questo, no? Sì. E poi su questo vento che arriva e che ci fa cambiare direzione e che a volte facciamo resistenza ma non ci riusciamo, e a volte è un vento che pulisce, a volte è un vento che ci dà da fare e che poi riguarda anche i nostri bagni di musica. Stiamo ascoltando Signe Emeluth, il progetto, il disco Banshee, che abbiamo ascoltato lunedì 6 maggio al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. La curatela, come ho detto, l'aiuto indispensabile dei curatori Walter Rover e Luca Vitali, hanno avuto visioni giustamente differenti, ma quanto mai, come ho definito in precedenza, indispensabile. Banshee si riferisce alla creatura mitica, le cui grida, i lamenti, così stridenti, come potete ascoltare, annunciano una distruzione, un cambiamento. Per Emeluth però il personaggio di Banshee non è necessariamente inteso come qualcosa di spaventoso, di orribile, ma piuttosto come una dichiarazione che il tempo vola. Vivere la vita che avete, cosa vogliamo sperimentare finché esistiamo, cosa lasciarci alle spalle, siamo presenti. Queste le diverse motivazioni in dialogo con questo insieme di musicisti dalla Norvegia e non solo, per quanto riguarda il Focus Norge come primo appuntamento. E la curatela, abbiamo sentito le anticipazioni da Luca Vitali. Ma a proposito di aspetti legati, come Focus Norge è stato riportato, abbiamo conosciuto anche un pianista. Seconda parte, da domenica 26 maggio, sempre con Angelica e Christian Valmuro, The Piano Kammer, il lavoro in solo, e poi lavoro con l'ensemble già dal titolo Amplify Many. Ora stiamo ascoltando un brano tratto dal solo. Plav, Tiziano Teodori, Exhalation, tanti altri progetti che hanno avuto un insieme, in questo caso dagli Stati Uniti, Olanda, all'Italia ovviamente, sostegno che è arrivato dalle istituzioni oltre confine, Dorothy Moskowitz, The United States of Alchemy, che abbiamo presentato anche in questo caso tra Stati Uniti e Italia, è un lavoro in prima assoluta. assoluta. Procediamo con il piccolo coro angelico, il saggio portato da queste giovani voci. Il lavoro di Angelica ha avuto motivo di approfondimento anche per suoni da ben oltre confine, con Satti Vittori and Friends, questi musicisti con musica tradizionale e contemporanea da Bali, Indonesia, un lavoro anche questo quanto mai affascinante. E poi, per quanto riguarda, e ne ascolteremo anche un piccolo assaggio, Looping, Brian Eno, performed by the Daedalus Ensemble. Insieme a Massimo Simonini parliamo anche di pubblico. Il pubblico è cambiato abbastanza radicalmente ogni sera, cosa che invece, sicuramente perché c'erano anche meno cose in città, ma anche perché cambia la società, cambiano le generazioni, perché qualcuno si muove per quella cosa lì, perché c'è un pochino più di elettronica, qualcuno viene più per quella cosa là, perché c'è più il mondo del jazz, qualcuno, ma io da ascoltatore, ma non da quando c'è Angelica, da quando ho iniziato ad ascoltare, forse grazie anche, anzi sicuramente, ad amici, ma non è... quegli amici che frequentavo erano frequentati anche da altri, però io ho fatto un percorso con amici che erano di 10-15 anni più vecchi di me, quando io ero un ragazzino, che mi proponevano di ascoltare della musica che poi io sono andato a cercare, che spaziava dalla musica di Tahiti ai Pygmei, all'Art Ensemble of Chicago, a Ornette Coleman, Ed Blackwell, Fred Frith, Brian Eno, cioè, e per me era una cosa naturale andarla a cercare. Allora, secondo me è nostro dovere, se abbiamo qualche anno in più, abbiamo più esperienza, di trasmettere questo tipo di esperienza e direi apertura nell'ascoltare tante cose diverse, perché penso che possa solo portarci ad aprirci e a contribuire a una conoscenza, ma non solo conoscenza, ad aprire la nostra sensibilità ad altri mondi, altre esperienze, altre culture. Stiamo lavorando a dei bandi che ci faranno fare dei miglioramenti in teatro, quindi cose tecniche, una camera acustica, nuovi tendaggi che servono sia per l'acustica ma anche per essere a norma con tutte le nuove o più o meno nuove normative. Poi progetti che riguardano l'archivio digitale di Angelica, che direi che è un tesoro, perché sono 34 anni di immagini, foto, video, dischi e racconti, un mettere in ordine un pochino, sì, e andare a rivedere il passato, che fa comunque un po' impressione. Poi riapriamo intanto stiamo lavorando a dei dischi molto interessanti e molto diversi tra loro, come sempre, che è appena uscito questo box di Anthony Braxton. E poi apriamo il 28 settembre con la stagione, con un evento che metterà insieme anche altre realtà, ma ne parleremo quando siamo, certo, pronti. Certo, certo. Intanto io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità, per la rassegna che avete portato, e con un caloroso abbraccio avremo modo di sentirci in una buona estate. Grazie Massimo. Grazie William. Saluti a tutti. Thank you. Ecco il lavoro che è partito, quel piccolo brano che ho voluto inserire è di un genio, performer, musicista, ricercatore, Julien Depré, che si è presentato con altri chitarristi un lavoro non di musica elettronica ma elettrotecnica. Pensate come così nella contemporanea l'adoperare in maniera artistica una struttura legata alla legge di Ohm di cui vi ho parlato, quindi non sto nuovamente ad ammorbarvi coi principi fondamentali dell'elettrotecnica. L'aspetto che avete sentito ritmico era ottenuto con un tip tap che poi è eseguito anche in solo in una struttura cantautorale accompagnato da un lavoro organico che come resistenze collegate in parallelo ha dato la possibilità di un ascolto veramente a dir poco coinvolgente. Poi c'è stato il lavoro in solo dove determinati aspetti sono stati resi ulteriormente acuti. Sempre da Banshee, mi sono preso il vinile ovviamente con la mia mania di acquisto compulsivo, ma non ne sono certo pentito. Intanto ricordando il lavoro portato da Walter Rovere con il Field Recording dedicato a Bologna, ovviamente anche in questo caso una prima assoluta travelog, cioè diario di viaggio di Carl Michael von Auswolf e Chandra Sukla tra Svezia e Stati Uniti, una prima assoluta, un field recording dedicato a Bologna. Questi insomma alcuni, ma direi d'aver citati in maniera, mi ha talmente coinvolto questa rassegna che ho portato insomma tutti i contenuti presentandoli un po' alla volta all'interno di altri suoni. Come ho detto, Angelica già ci manca, beh, chiaramente staremo in contatto e con Radio Città Fujiko sarà nuovamente presente per i prossimi incontri. Intanto io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a tra poco con il Move to Groove del martedì.